Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Ringrazio di tutto, principe. Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli e pecore, continueremo a crederci il sale della terra. Credo di non aver capito bene. Come ha detto? Niente, niente. Scusi, come ha detto? Non ho sentito. Chissà chi oggi crede d'essere il sale della terra, chissà chi sono i gattopardi, chi sono gli sciacalli, chi sono le iene. Vediamo soltanto tante pecore e questo è il momento loro. Oggi facciamo uno straordinario e singolare percorso all'inverso rispetto a quella che è la tendenza sulle prime pagine dei giornali. Non parliamo di attualità, non parliamo di nuove frontiere della comunicazione, non parliamo degli schizzi di fango o materie consimili che verrebbero dalla rete sotto forma digitale, ma parliamo di un periodo in cui il nostro paese stava nel fango fino alle ginocchia e pian piano è riuscito a uscirne. Ne parliamo con un punto di vista abbastanza eterodosso rispetto alle letture ufficiali, perché ne parliamo partendo dalla appendice più estrema del nostro paese, partendo dalla Sicilia. Molte volte ci siamo soffermati sulle similitudini e sulle antitesi totali rispetto all'attualità, nel momento fatidico in cui il nostro paese usciva da un momento terribile e lentamente, ma in maniera esemplare, rispetto ad altre situazioni simili, ad altri paesi che erano usciti dalla guerra, ebbe uno straordinario momento di crescita. In questo momento di straordinaria e folle decrescita, in cui per primi rappresentiamo nell'universo mondiale un paese che porta a livello di dignità di opinione e di peso politico ciò che sempre rappresentato in rete, il mormorio più indifesso, senza nessuna dignità di esistenza. Parliamo di gattopardi. Ne parliamo con un amico che è Marcello Sorgi. Marcello Sorgi, buongiorno. Buongiorno. Marcello Sorgi è editorialista della Stampa, un saggista, uno scrittore, appena pubblicato un romanzo singolare e intenso, Le sconfitte non contano, di Editore Rizzoli, in cui racconta la storia della Sicilia nell'immediato dopoguerra, partendo dalla sua storia personale, dalla sua autobiografia, partendo dalla figura di suo padre. I gattopardi tu l'hai lambiti dal tuo punto di vista nella tua vita. Tuo padre cosa faceva esattamente in Sicilia? Ma ai tempi del gattopardo, mio padre faceva l'avvocato innanzitutto, e quindi era stato l'avvocato di Rosi quando si fece Salvatore Giuliano, 2 anni prima del gattopardo, nel 1960. Nel 62, quando Visconti arrivò in Sicilia per fare il gattopardo, Rosi suggerì a Visconti di prendersi mio padre Agente, oggi si direbbe. Sì. Curava gli interessi di queste persone che facevano cinema. Vedi, anche Rosi, quando arrivò in Sicilia, pensava di fare il gattopardo da solo, o comunque di farlo con i collaboratori di cui di solito si avvale il regista, no? Invece dopo un po' dovette rendersi conto che in Sicilia per fare qualsiasi lavoro hai bisogno di un avvocato. E quindi, avendo sperimentato mio padre in Salvatore Giuliano, che era molto più complicato perché gli sequestravano le attrezzature, dovevano sostenere le azioni giudiziarie dei parenti di Giuliano, avevano i carabinieri contro. Perché i parenti di Giuliano non volevano che si facesse un film sul loro congiunto, che a tutti gli effetti era incensurato. Era incensurato anche perché l'avevano ammazzato, quindi non c'era stato tempo di processarlo, no? Cioè, e l'aveva ammazzato la mafia, l'aveva consegnato morto ai carabinieri, che avevano detto di averlo catturato e ucciso loro. E quindi insomma, era uno dei grandi misteri. Poi Giuliano aveva fatto la strage di Portella della Ginestra nel 1947, e quella strage, la sensazione è che l'avesse fatta per conto della mafia, ma anche un po' per conto dello Stato, perché la strage avvenne neanche un mese dopo che le sinistre avevano vinto le elezioni regionali, le prime elezioni regionali che si celebrarono in Italia. Quindi siamo in un periodo, il dopoguerra, che in Italia è carico di tensioni. Verrà il 48, Togliatti contro De Gasperi, ma in Sicilia questo genere di tensioni si regolano a fucilate. Ecco, era totalmente diversa la situazione. Negli anni in cui Rosi andava in Sicilia per fare il film su Giuliano, il resto d'Italia, il quadro era completamente diverso. Tuo padre gestiva una situazione in sé totalmente paradossale rispetto a quello che accadeva nel resto del paese. Beh, certo, perché insomma, se volevi fare un film in Italia, certo dovevi tener conto della commissione censura, dovevi avere buoni rapporti con Andreotti, che aveva la responsabilità dello spettacolo, ma comunque alla fine il film lo facevi, non è che Roma città aperta si fece, Paisà si fece, no? Mentre se andavi in Sicilia a fare un film ti impedivano di farlo, e Visconti, quando andò a fare il Gattopardo, per la verità un po' di ostacoli se li costruì lui da solo. La vicenda di Visconti in Sicilia fu completamente diversa. Come si presentò a Visconti in Sicilia? Ma Visconti, secondo me, si presentò avendo in mente una serie di pregiudizi, perché Visconti era il duca di Milano, cioè era la grande nobiltà risorgimentale. I genitori di Visconti erano stati tra le grandi famiglie aristocratiche che avevano spinto per l'unità d'Italia, no? E quindi aveva il pregiudizio di non capire questa aristocrazia siciliana che sotto sotto si era opposta e poi aveva accettato l'unità, il risorgimento, come un male necessario, no? Cioè, appunto, il pezzo del Gattopardo tuttora che abbiamo lo subivano appena il pezzo che abbiamo ascoltato del Gattopardo, il famoso colloquio fra il principe di Salina e il tenente Chevalier, e il libro sta tutto lì, no? Anche questo è un paradosso, però, che diciamo i due opposti del paese, le due forze che ancora vengono poste come antitetiche, lo spirito del sud e lo spirito del nord, si trovano su un terreno così singolare. L'aristocrazia di Visconti che va in Sicilia e improvvisamente si rende conto però di avere molti punti in comune, proprio perché lui era un uomo del nord antitetico. Il nord in quel momento era l'industrializzazione, le fabbriche, l'immigrazione, e lui era tutt'altra cosa. Lui, diciamo, non è che si innamora proprio di quell'aristocrazia, però capisce quel punto di vista e lo vuole studiare, per cui, pur avendo pronta la sceneggiatura, la troupe, tutto quello che serviva per fare il film, cerca tutte le scuse possibili per rinviare. È vero, no? Si presentò con una ventina di bei ragazzi efebici che dovevano fare poi cosa? Le comparse, perché in tutto furono girati. Sì, si presentò con questa ventina di ragazzi, appunto nordici, efebici, biondi, qualcuno straniero, e affittò una grande villa, che ovviamente è da una famiglia aristocratica, e si mise a vivere lì, però non voleva essere disturbato. Passava le sue giornate a contemplare da una finestra le albe, i tramonti, a leggere e rileggere il Gattopardo, e poi faceva dei capricci terribili sui luoghi, le location del film, perché per esempio doveva girare una scena di una festa tipo un battesimo, no? E si innamorò di un pollaio, cioè di un ex casino di caccia che ormai veniva usato come un pollaio, e pretese che fosse restaurato. E alla fine ci fu una lite tra la produzione e lui, perché oltre al restauro pretese che fossero fatti anche degli stucchi sulla facciata, che la produzione voleva semplicemente far disegnare come si fa nel cinema, ma lui pretese, oppure nella famosa scena del ballo pretese che gli arredi fossero originali, scelse personalmente i soprammobili andandoli a scegliere. La storia dei cassetti è vera? È vera la storia dei cassetti, cioè che lui volle che dentro i cassetti ci fosse la biancheria originale, la biancheria da tavola originale, le tovaglie, i tovaglioli, anche se i cassetti dovevano restare chiusi. Il sonno, caro Chevalier. Un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per portar loro i più meravigliosi doni. E detto già noi, io dubito sinceramente che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel suo bagaglio. Da noi ogni manifestazione, anche la più violenta, è un'aspirazione all'oblio. Ecco, Giuseppe Sansonno, uscendo da Il Gattopardo, con Sansonno però vorrei fare un punto più generale rispetto alle memorie di Marcello Sorgi, suo padre avvocato che gestiva i grandi uomini del cinema, che sembra che non avessero tempo. Per loro il tempo non aveva un significato. Visconti poteva permettersi di prendersi una villa, di mettersi lì e studiarsi Tomasi di Lampedusa, circondato dai suoi efebici giovanetti. In realtà nel resto del paese cosa accadeva? Il cinema, qual era il significato che aveva nella ricostruzione del paese? Beh, il cinema stava diventando una delle industrie principali del paese. Siamo nei primi anni 60 e il cinema si accordava in pieno al boom, al dinamismo, sia attraverso la commedia di cui abbiamo parlato tante volte, dei Risi, ma anche in parte dei Monicelli e di altri. Si descriveva i chiaroscuri anche di questo boom, ma il dinamismo. Però Visconti era un caso a parte, era una sorta di monade, era un sovrano rinascimentale che un po' si identifica con il principe di Salina fino in fondo, in questa figura appunto felina, questo felino che vive nelle penombre del palazzo Gangino, che parla con la voce meravigliosa che abbiamo sentito di Corrado Gaipa, che gli fa assumere questa rotondità siciliana, e riesce a coniugare Proust e Verga, cioè il senso di abbandono nei ricordi, ma allo stesso tempo l'immobilismo, un certo immobilismo, una certa durezza siciliana, da Damaso Don Gesualdo. Ecco, ecco Marcello Sorge, però mentre questo accadeva, il tempo sembrava essersi fermato per Visconti, c'è un'altra parte nel tuo libro che sono i ricordi più legati direttamente alla tua esperienza di giornalista. Cos'era l'Italia in quel momento, soprattutto l'Italia del Meridione? Qual era la grande sorpresa che avrebbe avuto un inviato da una redazione del Nord quando scendeva in Sicilia? Ma principalmente la mafia, di cui appunto... Non si parlava però ancora. No, non si parlava sui giornali, sui grandi giornali nazionali, anche sui giornali siciliani importanti, però in questo piccolo giornale di cui mio padre fu avvocato, L'Ora, in cui io tanti anni dopo cominciai a imparare il mestiere, e se ne parlava, e come la mettevano in prima pagina. Nel 1958 fecero un'inchiesta in 22 puntate, alla terza puntata, quella dedicata a Luciano Liggio, cioè come dire, il progenitore di Totò Riina, gli misero una bomba e gli fecero saltare la tipografia. Volevo aggiungere una cosa, se possibile, no? Sul discorso di come cambiò con Giuliano proprio la visione della mafia, perché prima c'erano Germi e Blasetti che la vedevano un po' come un far west, la Sicilia molto edulcorato, molto bozzettistico. Con Giuliano si entrò nel vivo dell'inchiesta, si recuperò molto del giornalismo, dello sguardo anche sull'attualità oggettivo quasi, e con una trovata geniale di non far apparire mai Giuliano in persona, ma vederlo sempre di sghembo, lasciandolo come un mistero, come una sorta di mito che alleggiava sulla Sicilia. Ecco, nel tuo libro, Marcello, c'è una parte in cui dei grandi inviati dal giornale del Nord scendono in Sicilia. Qual era il quadro che gli si presentava, però? Beh, bisogna dire intanto una cosa, che amavano scendere in Sicilia perché gli sembrava di approdare in una nazione diversa, no? Sembrava, cioè, stare il paese andavano, arcaico. Sì, andavano in Sicilia come negli anni successivi andarono poi a Beirut o in Vietnam, i più avventurosi, no? Cioè, e quindi amavano molto questo. Poi andavano in Sicilia perché ci trovavano dei fenomeni che in Italia non c'erano più o che in Italia stavano finendo. Per esempio i morti di fame, no? Cioè la morte per fame, cioè in una città come Palermo, 650.000 abitanti, 200.000 persone tutti i giorni morivano di fame. Questo, ma di che anno parliamo? Stiamo parlando del 58-59, insomma. Cioè già c'era Campanile Sera, la televisione, già c'era Carosello e tutte queste cose qua nel resto dell'Italia. Però magari in un palazzo c'era un solo televisore o c'era un solo telefono, quindi cioè la forza di quei programmi era anche di raccogliere un intero palazzo in pantofole attorno alla casa di quello che stava meglio e che aveva la TV in bianco e nero. E gli inviati dell'Espresso, per esempio, arrivò uno squadrone composto da Scalfari, Corbi e Zanetti, cioè tre che avrebbero diretto tutti e tre il settimanale. Scrissero la storia poi del giornalismo in Italia. Sì, in quel momento il giornale era diretto da Benedetti, questi tre giovani trentenni arrivarono in Sicilia e fecero un'inchiesta che oggi sembrerebbe un po' sociologica, ma allora era molto bella, e conclusero che era un territorio in cui la mafia era sostanzialmente il governo e la Banca d'Italia era il Monte dei Pegni. Tu hai cominciato giovanissimo a lavorare all'Ora di Palermo, ecco, com'era la situazione del giornalismo locale al tempo? Che poi negli anni si parlò di giornalismo diverso, di battaglia, giornalisti che erano in primo piano nel rappresentare l'aspetto migliore di un territorio. Ma il giornale L'Ora in cui io cominciai era ancora il giornale delle grandi battaglie civili siciliane, soprattutto quella contro la mafia. Era il giornale di Mauro De Mauro, il giornalista che venne rapito, di cui non si è saputo più niente. Era il giornale in cui due giovani corrispondenti di provincia furono assassinati dalla mafia, quindi era un ambiente in cui si percepiva che si faceva qualcosa di appassionante ma anche di molto pericoloso. 800 24 00 24, chi avesse dei ricordi personali da aggiungere a quelli che stiamo scandagliando questa mattina della Sicilia del giovane Marcello Sorgi, e darà un contributo importante a questa trasmissione. Bisognava conquistare l'indipendenza prima che la guerra fosse finita in continente, per mettere il governo italiano di fronte al fatto compiuto. Ora è tutto inutile, ogni giorno che passa è sempre peggio. o rinunciamo sin d'ora all'insurrezione o scattiamo subito senza perdere un minuto. E con chi la fai la rivoluzione? Con i ragazzi? Ci sono attualmente in Sicilia 37 bande di fuorilegge. 37! Con tante armi da riempire un arsenale. E non è tutta gente scappata dalle galere. Anzi, la maggior parte sono dei disgraziati rimasti vittime dell'ingiustizia, dell'ignoranza e della miseria. E non aspettano altro che una buona occasione per inserirsi di nuovo nella vita civile. Ma basta con questa tua proposta. Lo sai che la maggior parte di noi è contraria. Con le buone però non si ottiene niente. E va bene, d'accordo. Possiamo benissimo costituire un corpo indipendente d'azione e scagionare il partito da ogni responsabilità. E poi basta con queste fesserie. Di chi si è servito Garibaldi per liberare la Sicilia dai Borboni? Dai picciotti. E chi erano i picciotti? Latitanti, banditi. Ottobre 1945. Giuseppe Sanzonna, torniamo sull'operazione Salvatore Giuliano. Sì, Francesco Rosi appunto nel 62 realizza questo film fortemente innovativo dal punto di vista linguistico. Lui andò a vedere addirittura una manifestazione in occasione del 1° maggio per guardarla e la ricreò e notò che si ricreò una sorta di psicodramma, cioè le comparse, la gente che partecipò alle riprese rivisse quegli eventi e quindi fornì al film un'autenticità insperata che appunto non c'era in quella Sicilia oleografica di cui si parlava prima e che fino a quel momento era stata rappresentata nel cinema italiano come un elemento altro, appunto come se fosse un film classico americano, western americano, quindi tipizzato in quel modo. Invece in Rosi c'era la vita che scorreva, come ci diceva Sorgi, appunto ci raccontava di quanto fossero intervenuti, appunto la realtà viva avesse bucato la porta del set e fosse entrata appunto in scena. Un'altra singolarità, Marcello Sorgi, rispetto alla situazione siciliana degli anni dal dopoguerra poi a seguire fino agli anni di piombo, era la tipicità rispetto alla gestione politica, la tenuta politica. Noi pensiamo, vedendola dal continente, ci fosse un'omogeneità di gestione democristiana dell'Italia in quei tempi, invece era molto diversa vista dal sud. No, ma perché poi erano ovviamente delle bande divise tra loro. La Sicilia fu la terra del milazzismo, no? In quegli anni, cioè a un certo punto fu possibile fare un'alleanza di tutti contro la DC, fascisti, comunisti, un pezzo di democristiani scappati dalla DC che si allearono tutti insieme contro la DC e fu una rivoluzione, cioè arrivarono questa volta gli inviati di mezzo mondo, perché vedere una cosa del genere era impensabile. Poi la storia finì in un modo rocambolesco, in qualche modo cinematografico, nel senso che a poco i democristiani riuscivano a recuperare i dissidenti, no? E a un certo punto una sera ci fu un incontro all'Hotel delle Palme in cui uno di questi dissidenti che stava per tornare all'ovile fu pagato con i soldi della CIA. Insomma, ci fu uno strano passaggio, no? Cioè, e in questa stanza dell'Hotel delle Palme per la prima volta erano state installate delle microspie e per cui tutto venne registrato. In che anno era? Sempre il 58. Ma lì furono precursori rispetto a quello che poi accadde nel paese. Sì, erano precursori in tutto. Senti, invece, diciamo, dal punto di vista di te, giovane cronista, come vedevi la realtà al di là dello stretto, prima di venire poi in Italia? Di venire poi a lavorare fuori dalla Sicilia. Ma fai conto che sicuramente il lavoro di cronista in Sicilia era molto più divertente e appassionante. Dico, poi in Italia abbiamo avuto dei fenomeni enormi come il terrorismo che sono diventati terribili ma anche appassionanti per dei giornalisti, però mi ricordo che uno dei primi servizi che mi capitò di fare per Lola fu la liberazione di un imprenditore sequestrato che si chiamava Luciano Cassina ed era il figlio di un grandissimo appaltatore pubblico e noi andammo ad appostarci sotto i muri di questa grande villa dove appunto il sequestrato era stato poi portato, aspettando che lui uscisse, e si sentivano dei ruggiti perché nel parco di questa villa il papà del sequestrato allevava dei giaguari, no? Cioè, se pensi appunto che oggi tigri e giaguari fanno parte dell'immaginario politico. Lì, insomma, come cani da guardia, questo teneva dei giaguari. Quindi dove lo trovi un posto in cui ci siano delle stranezze? Una persona tiene il giaguaro nel giardino come cane da guardia. Melog. La realtà condivisa. Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza dalla Sicilia. Peggiore! E diventiamo tutte soldate ora. L'Italia ci ha mandato per il fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta, e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti. Troppo ha durato questo sonno vergognoso e questo triste sogno, tutto hai perso anche l'onore. Ci stiamo lasciando sul filo del ricordo per ricostruire un clima letto, interpretato, vissuto da alcuni personaggi di primo piano nel mondo del racconto della realtà attraverso il cinema, anche attraverso la letteratura, attraverso il giornalismo, come vedevano la Sicilia, come vedevano il mondo della Sicilia negli anni del dopoguerra. Lo facciamo prendendo lo spunto dal libro di Marcello Sorgi, Le sconfitte non contano, editore Rizzoli, che racconta la sua storia di famiglia, una storia di famiglia che passa in sottotraccia attraverso tutti questi fenomeni singolarissimi. Abbiamo sentito Salvatore Giuliano, ma in realtà il vero bombarolo in Sicilia in quegli anni fu Visconti. No, nel senso che una delle due scene importanti che Visconti girò in Sicilia è l'arrivo dei garibaldini a Palermo, no? È una scena di battaglia, di massa, con un sacco di comparse, e lui, Visconti, pretese che si usassero le bombe vere, e uno dei lavori di mio padre fu ottenere l'autorizzazione per fare piazzare queste cinque bombe. Da che trovare tutti i permessi per mettere le bombe. Permessi, anche i luoghi in cui si potevano piazzare, perché una bomba poi quando salta... E per fortuna Visconti si accontentò solo di 3 bombe, ne fece saltare 3, che fecero tremare un intero quartiere, che peraltro era il quartiere in cui ancora oggi ci sono le rovine dei bombardamenti. Quindi ci fu una complicata esperienza psicologica degli abitanti, che uscirono tutti all'esterno. Un ritorno nell'incubo. Un ritorno nell'incubo dei bombardamenti, no? La scena venne molto bene, però. Maria, ci abbiamo ascoltato, devi dire una cosa, scusa. No, che Lombardo si era raccomandato di non far fare guerre, perché Suso Cecchi d'Amico racconta che in sceneggiatura avevano scritto che la guerra era risolta da un ragazzino che diceva: arrivano i garibaldini, mi raccomando, non ricostruite nulla. Invece Visconti voleva proprio ricostruire la storia attraverso il cinema. Non deve esserci la scena di guerra. No. Maria, abbiamo un'ascoltatrice. Maria, buongiorno. Buongiorno, dottore. Allora, io ho 61 anni e da bambina andavo l'estate in Sicilia perché mio padre era siciliano. E ricordo una cosa molto particolare, soprattutto particolare per la percezione diversa della mafia, ecco. In questo senso, mio padre viveva al nord, era medico ed era stato un compagno di università, all'università di Palermo, di un medico che era anche un grande capo mafia. E un'estate, faceva caldissimo a Palermo, non so per quale folle idea. Di che anni parliamo, Maria? Io sarò stato 55-56. Quindi gli anni che stiamo attraversando adesso, ricordo di Marcello Sorge. Sì, esatto. Allora, andiamo a mio padre, gli viene questa folle idea che mia madre era appassionata di montagna, mia madre era la continentale, tra parentesi, mia mamma era mezza francese addirittura. Arriviamo in questo posto della Ficuzza, al famoso bosco della Ficuzza, insomma, che per chi vive in Sicilia è molto famoso, era proprio vicino a Corleone, tanto per intenderci, ecco. E il risultato, affittiamo una casa. Mia madre credeva di essere nelle valli della Val d'Aosta o del Trentino, faceva queste passeggiate nel bosco insieme a me, e una volta viene, diciamo, importunata, da quello che poi raccontava lei, da un pastore. E mio padre, che era rimasto amico di questo medico nonché capo mafia, gli dice: ma sai, mia moglie è stata importunata. E questo dice: va bene, prende atto. Dopo qualche giorno eravamo in casa, tranquilli relativamente, e arrivano con i muli, arrivano dei pastori con i muli, con le ricotte. La padrona di casa si barrica in casa perché immaginava che ci avrebbero ammazzati tutti, non sapeva di queste conoscenze così. Ci arrivano e comunicano a mia madre che può andare dove vuole. Dice: lei nel bosco, dice il dottore Puntini Puntini, adesso non voglio dire il nome, non so se è il caso alla radio, dice che lei dappertutto può andare. E da quel giorno mia madre girava dappertutto, arrivavano i pastori, si toglievano la coppola. È una percezione diversa della mafia, cioè non la sì, mafia dei... Sì, sì, non è che ci faccia proprio sorridere. Marcello Sorge, rispetto al ricordo di Maria, ci trovi ricordo... delle similitudini con l'habitat? C'è un episodio che riguarda la sorella del duca di Salaparuta, Enrico Arriata. Stiamo parlando di una delle più grandi famiglie nobili che in Sicilia, poi, per dire, il duca Enrico era un tipo solitario, viveva in una torre e si dedicava ad ammaestrare i pipistrelli, tanto per E cosa ci dirti. faceva? No, così per divertimento, addomesticava dei pipistrelli, li insegnava a fare degli esercizi, li chiamava. E la sorella del duca era solita fare una passeggiata il pomeriggio, no? E un pomeriggio fu avvicinata, un pomeriggio di agosto in cui c'era un caldo terribile, fu avvicinata appunto da un uomo di campagna che gli disse: "Signorina, stasera fa fresco, è meglio che si ritiri." E lei disse: "Ma c'è un caldo terribile." "Ma no, mi ascolti, è meglio che si ritiri." E tornò indietro. E la mattina dopo, nel punto in cui lei aveva girato per tornare indietro, fu trovato morto ammazzato. Quindi ebbero la cortesia di evitare che la principessa fosse Sì, testimone del diciamo, delitto. fa parte un po' del racconto che è intriso molte volte di questa quasi nostalgica idea che ci fosse qualcosa legato ad antichi codici, ma in realtà non era così. Era grottesco, ovviamente era grottesco. Cioè, c'era una convivenza di comodo fra l'aristocrazia e la mafia, perché in realtà i mafiosi si erano impadroniti delle campagne e le gestivano sparando sui contadini, peraltro appena i contadini provavano a ribellarsi. Ma questa convivenza di comodo era destinata progressivamente a cancellare il ruolo dell'aristocrazia e a fare della mafia la nuova borghesia, la nuova classe dirigente della Sicilia. Quindi si rivolse contro a chi aveva in qualche maniera lasciato un po' correre rispetto al fenomeno emergente, la mafia. Non c'è dubbio, Fu non c'è dubbio. uno, diciamo, la fine di questa aristocrazia. Poi vedi, tu hai citato Salaparuta, ma sono tutti finiti e poi occuparsi di altre cose, di altre attività. Si sono ricondizionati in altre attività i nobili siciliani. Sì, ma sempre. In realtà l'aristocrazia siciliana ha contemplato la propria rovina facendo in modo che fosse il più lenta possibile. Ogni tanto si inventavano delle attività, non so, il principe Aliata di Villafranca si mise a fare il cinema, fece Vulcano contro Stromboli fatto da Rossellini, però poi finì a fare una fabbrica di gelati, no? Cioè, passavano da un'attività all'altra perdendoci sempre una parte di questi patrimoni immensi che faticavano a consumare fino in fondo, però a un certo punto la fine doveva arrivare anche per loro. Io divido l'umanità in cinque categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominichi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi. Già molti di più gli ominichi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, qua, guarda qua, il branco di oche. Ma lei, anche se mi inchiode, è un uomo. E perché Giuseppe mi considera Sansonna, qui un abbiamo uomo? fatto un salto deciso in avanti. È passato qualche anno, si arriva al 68 e Damiano Damiani, che tra l'altro è morto da poco, un grande regista italiano, prende questo romanzo di Sciascia, Il giorno della civetta, e colloca l'occhio ceruleo nordico di Franco Sparanero, alias Franco Nero, in questa Sicilia in cui sono intrighi politici, imprese edili e la mafia, appunto, che qui ha la voce suadente di Don Mariano Arena, di Lee Cobb, che è uno di questi grandi attori americani che venivano a prendere soldi, esentasse, dollari nel loro cimitero di elefanti, all'Italia in quel periodo, per fare questi grandi ruoli da caratteristi. Però gli riesce molto bene questa scansione dell'umanità, che è ancora molto in voga, queste cinque categorie che appunto lui snocciola davanti al tenente. Ecco Marcello, invece gli anni che seguirono, come si vengono registrati la tua famiglia? Tu avevi una nonna singolarissima, appassionata di matematica, ma voleva sempre avere ragione anche sulla perfezione dei numeri. Ma io credo che in tutte le case c'era una nonna che era un po' la vera capa della casa finché la vecchiaia non la. A casa nostra c'era questo personaggio singolare che era la nonna matematica, una donna nata nel 1882, laureata in scienze nel 1902, quando insomma le donne siciliane non è che non andassero all'università, non andavano neanche a scuola. Quindi una Insegnavano. singolarità assoluta. Singolarità assoluta, grazie a uno zio medico che le pagava le tasse universitarie di nascosto, no? E naturalmente da questo aveva ricavato una concezione di sé molto forte, che si estrinsecava in questo, che quando noi le chiedevamo aiuto per un esercizio di matematica, lei faceva questo esercizio di matematica, mi ricordo che lo svolgeva sul bordo delle pagine dei giornali, perché non amava gli sprechi. Avevo una sorella, per esempio, che custodiva i lacci, qualsiasi tipo di spago, di quelli che allora si usavano, e aveva una di queste scatole in cui c'era scritto troppo piccoli per essere usati, cioè conservava anche gli spaghi inutili, perché non si buttava niente. Ecco, cioè, conservava oggetti inutilizzabili. Inutilizzabili, però ci metteva un'etichetta. E mia nonna faceva questi esercizi e in genere il risultato le veniva subito, no? Ma quando non le veniva, lo rifaceva velocemente, con una velocità da computer, e se per caso il suo risultato veniva una seconda volta, cancellava il risultato del libro, metteva il suo risultato e accanto scriveva esattissimo, che è un'idea di presunzione, no? Cioè, io dico sempre che il carattere correggeva i libri matematici. Io dico sempre che il carattere dei siciliani si può sintetizzare in due presunzione e prepotenza. Sentiamo Cesare, buongiorno. Buongiorno. Allora, io telefono perché ho una parentela illustre. Da parte di mia moglie, io sono parente dell'onorevole Concetto Gallo, capo dell'Evis del separatismo siciliano, nonché amico personale del bandito, anche di quello che qualcuno sostiene essere il bandito. In realtà non è un bandito, ma è un lungotenente dell'Evis, Salvatore Giuliano. Lei è convinto allora, di questa tesi? Assolutamente, perché la mia famiglia più volte ha citato Democrazia Cristiana e Comunismo per smentire quello che si era detto sull'Evis e su Salvatore Giuliano, perché già allora le falsità della stampa, della Democrazia Cristiana e dell'allora regime fascista democristiano sminuiva la Sicilia e sminuiva il movimento. Io ne sono convintissimo. Quindi secondo lei Giuliano è una vittima totale della sua buona fede? Non era una vittima totale, era semplicemente il luogotenente dell'Avis, colui che voleva liberare la Sicilia assieme ai suoi onorevoli, tra cui l'onorevole Concetto Gallo. E Portella della Ginestra? Portella della Ginestra è una balla, glielo dico io, è una balla grossa montata dai giornali, punto primo. Non ci furono punto morti? Secondo. No, ci furono dei morti, ma il discorso fu realmente diverso. Io purtroppo non ho più accesso alle carte, perché queste carte sono state smarrite. Chi le ha le carte? Carte di Casagallo. Le carte di Casagallo sono scomparse quando la moglie dell'onorevole, la pittrice Gallo Adriana, è morta. Cioè i suoi parenti, tutti i suoi parenti? Esattamente. Quindi lei non ha possibilità di accesso alle carte di famiglia che darebbero questa, diciamo, lettura esattamente, sconvolgente? Esattamente, sono state fatte fuori, sono sparite. Però una cosa mi permetta di dirla, in piena ovviamente... No, scusi, no, Cesare, ci interessa questo, è un aspetto inedito. Le carte di casa dell'onorevole Gallo avrebbero le prove che Portella della Ginestra... Esattamente. Esattamente. Una sorta di negazionismo di Portella della Ginestra. Esattamente. Le dirò di più. Io sono pienamente d'accordo con la gentile signora che è intervenuta prima a proposito della realtà siciliana. La realtà siciliana o la mafia, come è stata identificata o come è identificata tutt'oggi, ma anche ai tempi di Sciascia, perché voi avete fatto sentire il bellissimo passo del giorno della civetta, che tra l'altro... Mi permetto di dire, non si chiamano rufiani, si chiamano piglia in culo. Questo è quello che aveva detto Sciascia nel libro. È stato censurato di recente dal doppiaggio. Certo, ovvio. Non siamo noi è che ovvio. Abbiamo cambiato il testo, no, il doppiaggio. Ma per carità, ci mancherebbe altro, voi non c'entrate nulla. Comunque, la mafia. Che poi fra piglia in culo e rufiani non c'è sintonia, esattamente, sono due categorie totalmente diverse. Se vogliamo rappresentare delle categorie umane, il piglia in culo non ha nulla a che fare con rufiano. Esattamente, se lei legge il libro, e come sicuramente il dottor Soggi l'avrà letto, capirà la differenza che c'è tra figli e figli. Fermiamoci un attimo, Cesare, siccome questa differenza è fondamentale, dobbiamo entrare un po' più nel dettaglio, diamo le informazioni del traffico e poi riprendiamo con lei. Melog, la realtà condivisa. 800240024, stiamo parlando del libro di Marcello Sorgi, Le sconfitte non contano, Rizzoli editore. Ci ha chiamato un ascoltatore Cesare, che anche lui appartiene a un ramo illustre di persone che hanno avuto il loro peso, come appunto la famiglia di Marcello Sorgi. Il padre era un noto avvocato che rappresentava tutti coloro che andavano in Sicilia, vanno a fare qualche attività, soprattutto di cinema. Beh, Cesare è parente di Concetto Gallo, un sostenitore dell'indipendentismo siciliano, e ha degli aspetti aspetti inediti rispetto alla vicenda di Portella della Ginestra. Allora, Marcello, prima ridiamo un'inquadratura per la seconda storiografia ufficiale, poi sentiamo l'ascoltatore Cesare, ci darà gli elementi inediti dal suo punto di vista. La storia di Giuliano può essere divisa in due parti. Effettivamente, quando lui entra in scena, come quelli che Danilo Dolci definirà i banditi per necessità, cioè quelli che avevano questa regola che diceva: a chi mi leva il pane gli levo la vita. Questo ed era, non so, se rubava i sacchi di zucchero li dava ai poveri, quindi era una specie di Robin Hood all'inizio. Poi, quando invece diventa ufficiale del Levis, Levis è una cosa un po' diversa, secondo me, almeno da come la racconta il nostro ascoltatore. Cioè, nella Sicilia c'è un forte movimento separatista, metà di questo movimento separatista è, come dire, legalitario e legato alla sinistra ufficiale, l'altra metà è a cavallo tra quell'equilibrio di occupanti americani e capi mafia che servì a liberare la Sicilia nel 43. Questo Evis doveva essere, come dire, il braccio armato di quel pezzo di separatismo che puntava addirittura a trasformare la Sicilia nella 50ª stella della bandiera americana, a farne un piccolo regno e a mettere a capo di questo regno la regina Maria José, che nel di Savoia, che nel frattempo era andata in esilio. L'obiettivo fare un regno di Sicilia che, con la regina Maria José, confederato però con gli Stati Uniti. Giuliano finì in mezzo a questo guaio, probabilmente ci finì inconsapevolmente, però è provato che a sparare a Portella della Ginestra ci andò lui, no? E quindi in quel caso, diciamo, fece il lavoro sporco per conto di un insieme da cui lo Stato italiano non era estraneo, ma la cui committenza probabilmente veniva da oltreoceano, che puntava, diciamo, a far spaventare gli elettori che avevano fatto vincere in Sicilia le elezioni regionali del 47 alla sinistra. Cesare, ancora in linea? Sì, certo. Cosa da aggiungere? Dalle sue prove testimoniali familiari, naturalmente. Esattamente, io ho da aggiungere che la situazione di miseria e di estrema diversità che c'era allora in Sicilia era tale per cui, secondo me, Levis era giustificatissimo. E secondo me, se questo era il piano del Levis, cosa di cui dubito abbastanza, anche se il dottor Soggi sicuramente è molto più ferrato di me, perché io, ripeto, ho avuto la possibilità di capire che queste carte esistevano solamente in giovane età e purtroppo ora non ci sono più. Chiedo scusa un attimo. Cesare. Un attimo, si è allontanato. Sì. E quindi, non avendo più la possibilità di avere accesso a queste carte, perché, ripeto, dal momento in cui la donna Adriana Gallo è morta, la pittrice, queste carte sono sparite, quindi nessuno. In queste carte c'era la prova che in realtà, sulla realtà storica di Portella della Ginestra. Ne parlammo ai tempi in cui l'onorevole Gallo era ancora vivo, morì poi di cancro. Ma lei le ha mai viste queste carte? Come? Le ha mai viste lei queste carte? Le ha avute in mano? Le ha viste mia moglie, le ha viste la mia famiglia, quella di tanti. Però al tempo non esistevano le fotocopie. Purtroppo non esistevano e poi erano molto gelosamente custodite nel suo studio, ovviamente. In ogni modo, quello che era la Sicilia un tempo, ricollegandomi all'aspetto della signora che ha trattato precedente, era che la mafia non era quella che è concepita adesso, cioè quella attuale, che effettivamente possiamo chiamarla mafia perché è un'associazione a delinquere di qualsiasi stampo. Era una istituzione che cercava di tutelare quella che era la Sicilia e i siciliani. E il discorso del rispetto, come abbiamo sentito prima, quindi della mancanza di rispetto... Farla passare come un'organizzazione filantropica e una proloquo mi sembra un po' azzardato. Anche a me, devo dire. Mi sembra un po' azzardato, Cesare. Io leggo, prima aveva citato, per dire, Marcello Sorgi, quando i tre grandi inviati, che poi diventarono tre grandi direttori, Scalfari, Corbi e Zanetti, andarono in Sicilia come oggi potrebbe andare in una terra selvaggia inesplorata. A Tudia, nel cuore del vicino, nella piana di Caltanissetta, incontrarono il contadino Damiano Gentile. Leggo testualmente dal libro Le sconfitte non contano di Marcello Sorgi il dialogo con questo contadino. Gli chiedono: cos'è la Repubblica? Non ci sono mai stato. Qual è la capitale d'Italia? Non lo so. Hai mai visto il mare? No. Hai mangiato pesce? Qualche sarda. Sei mai stato al cinema? Marcellino in piazza? quando ci fu la festa dell'Annunziata. Cioè Marcellino Panevino era lo squarcio più profondo e più suggestivo nel quotidiano di questo contadino. È una situazione veramente difficile da capire, quando da noi già guardavamo le cucine americane, Carosello, i detersivi e le famiglie felici. E se andassi avanti a leggere, troveresti che vivevano in una capanna fatta di paglia e di terra, dove con la figlia di 19 anni nello stesso letto dei genitori, con l'anima, con il mulo che viveva in casa e mangiava in casa, e con gli altri figli che dormivano per terra su un pagliericcio in cui la paglia veniva cambiata una volta l'anno. Quindi cioè, sono delle condizioni da Africa centrale, insomma, tanto che l'inchiesta dell'Espresso si chiamò L'Africa in casa, perché era come avere l'Africa in casa. Beh, è atroce pensarlo alla luce della nostra sensibilità contemporanea. Pensa se oggi potesse fare una cosa del genere. Anche perché la mafia, come dire, era garante di questo equilibrio economico, perché questi contadini ricevevano, diciamo, la possibilità di farsi queste capanne in un territorio che non era loro, non ricevevano nulla da mangiare, una parte minima del raccolto che non gli bastava per la sopravvivenza, e non venivano pagati, cioè il loro lavoro era gratuito. Ora, il garante di questo equilibrio feudale era esattamente come il feudalesimo 500 anni dopo, il garante di questo equilibrio feudale in cui tu davi lavoro in cambio di neppure sopravvivenza era la mafia, insomma, cioè senti, non erano gli aristocratici. Ci dici, proprio in conclusione, manca un minuto alla fine, il perché le sconfitte non contano? Le sconfitte non contano nel senso che questo libro è il racconto di tante battaglie, alcune vinte, alcune perdute, no? Cioè, per esempio, questa dei contadini è una battaglia perduta, perché poi i contadini se ne andranno e diventeranno emigranti, e poi ce ne sono tante altre. Insomma, la battaglia contro la mafia è alle volte vinta, alle volte perdute, però non contano perché segnano comunque un grande cambiamento della storia. Cioè, è la storia di alcune sconfitte che hanno contato più delle vittorie. Grazie Marcello Sorgi, grazie Giuseppe Sansonno, abbiamo parlato, le sconfitte non contano, Rizzoli Editore, a domani.